side. Lasciati spuotare questa guerra, lasciati gridare queste spine che non ci fanno sognare, che non ci fanno sognare. Ogni guerra assurda, ogni guerra è assurda. Sulla strada verso casa tu cammini e mi abbandoni. Una rottura di sicurezza sarebbe utile. Dimenticavo, angeli e sarpi danzano. Non credi di esagerare, lasciaci sputare su questa guerra, lasciaci gridare su queste spine che non ci fanno sognare, che non ci fanno sognare, che non ci fanno sognare, che non ci fanno sognare. Ogni guerra è assurda, se ancora tu